Eccoci qua, le ore 21, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Trafelati, ma siamo arrivati. E si inizia dunque questa ennesima puntata di fine giugno. Fino al 30 giugno ci sarà la possibilità di aderire al radioabbonamento, quindi per i più, diciamo, esitanti, c'è il banner specifico sul sito della radio, appunto sul sito che ho detto prima, ondarossa.info, si può entrare nel banner e si possono scegliere le varie modalità di adesione. Peraltro, comunque, per tutto il resto dell'anno è attivo il 6180 4001, conto corrente postale. Saluto Maia in Sardegna, Venusa Zozzetta Stramogno di Cupo di Solvi, a Firenze Omicidio con Antonio Zoviet, a Taranto Doriana Panico, Enrico Ponzoni di Sokun Shibutsu Project. Un saluto a Tiziano di Big Greco, Simone Scalise di Audio Chaos. Medico della peste. Vado a salutare Noise Cluster con Flavio De Rebecante e Arianna Degni Lombardo. Stasera concludiamo la nostra analisi e il nostro sollazzarci con il disco dei Pankow. Andremo dunque ad ascoltarci Winterreise, una delle ultime opere di Franz Schubert, riletta in maniera elettronica ma anche attraverso un bellissimo pianoforte da parte di Maurizio Fasolo e Alex Spalk, quest'ultimo ovviamente alla voce. 24 tracce, quindi un album piuttosto lungo. Una genesi che ebbe luogo circa 3-4 anni fa, ma che poi soltanto negli ultimi tempi ha visto la luce. E allora, un saluto ad Anna, mi sembrava di averla salutata, ma nella fretta che ho detto di questi ritmi assolutamente troppo veloci. Quindi, dicevo, dopo aver salutato Anna, torniamo ai nostri Pankow. Ci andiamo ad ascoltare Kim Dorie, Die Nebennossen der Leiermann. Was sie noch übrig ließen, doch wieder zu finden, doch wieder zu finden auf ihren Kissen. Fort, ihr wachen Hunde, lass mich nicht ruhen in der Schlummerstunde. Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich? Unter den Schläfern säumen. Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen? Thank you. La rilettura di Winterreise, una delle ultime opere prima della morte per sifilide, ricordo, di Franz Schubert a soli 32 anni. Sofferta questa opera, anche epica, molto evocativa, e l'arrangiamento ideato e realizzato da Maurizio Fasolo e Alex Spalk alla voce ne danno appunto una versione assolutamente accattivante, un disco che va gustato e centellinato pian pianino. Quello che dice Antonio Zoviet è giusto, che è anche il cantante attuale dei Pankow, Brand Clerk, che è sempre presente dal vivo, è pressoché simile a quella di Alex Spalk. E Spalk di tanto in tanto dà il suo apporto a livello di album, come in questa occasione. Ormai vive in Australia da molti anni e osserva un po' da lontano, un po' riproponendosi il lavoro di Pankow, che esiste ormai da circa 40 anni. Ringrazio Flavio Del Becante della segnalazione, un'intervista proprio a Noise Cluster fatta dalla nostra Sara Capo Fontana su impattosonoro.it, quindi chi vuole va su questo link di Impatto Sonoro e se la va a leggere. Su sentireascoltare.com, e grazie di qui invece ad Antonio, c'è proprio un'intervista ai Pankow che si chiama La qualità della danza. Saluto Like Wake e Nicola Locci e di nuovo Anna. E rimaniamo in Italia per una anteprima che riguarda un nuovo progetto che sta prendendo forma. Ossia La Porta Ermetica, un progetto di ispirazione esoindustriale, come si suol dire, che vede tra le proprie file Claude Eddy, Teatro Satanico con Lunus Davis e anche Adriano Vincenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte, quindi tre esponenti storici di un certo tipo di scena sperimentale. A settembre uscirà presumibilmente un nuovo lavoro, ma c'è questa anticipazione che ci andremo a sentire, ossia Porta Ermetica Gemini 23 Remix. God hat sie so gemacht, von einem zu dem anderen. Gott hat sie so gemacht. Thank you. I tratti dunque prettamente esoterico-industriali per quanto riguarda questa sorta di supergruppo dal nome La Porta Ermetica. Ricordo con Claudio Giammarini, alias Claudedi, Lunus Davis di Teatro Satanico e Adriano Vincenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte e tanti altri progetti. La Porta Ermetica prende anche spunto da un monumento che c'è qui a Roma e si basa sul il suono evocativo, come viene citato qui sul profilo Bandcamp, di vecchie esperienze del passato come Einsof, Capricorni Pneumatici, Rosemary's Baby, Lashtal, Telema e Sigillumes, eccetera eccetera. In questa Porta Ermetica Gemini 23 Remix, che va ad anticipare un album che probabilmente uscirà il prossimo autunno. Viene citato anche Corpo Parassita, grazie Antonio, è vero, mentre saluto anche Dario Arrighi, a dimostrazione dei nomi che ho detto e che stiamo dicendo insieme, di come sia stata ed è tuttora florida la scena italiana da ogni punto di vista e tendenza, diciamo quella industrial in senso ampio. Mentre sto parlando, lui è Tarme Tilhalle, Living the Body, artista contenuto in Anthology of Experimental Music from America Latina, quindi operazione perpetrata dal buon Raffaele Pezzella. della medesima compilation, adesso un brano un po' più breve, appartenente a Esmeralda, questo è Duelo Cumbia del Fantasma. Per quanto riguarda questa compilation dedicata all'America Latina, uno dei tantissimi lavori ideati da Raffaele Pezzella con collaboratori proprio provenienti da laggiù, e in questi due episodi abbiamo intrapreso la strada in un certo senso del kraut rock da un lato, ma anche le fantasie e le morbosità dei Coil da queste parti, molto cari. Con queste percussioni impazzite. Prossima settimana ci sentiremo a qualcos'altro da questo compendio latinoamericano. Invece torniamo in Italia. sentire cosa ci aspetta la prossima settimana. Non male, eh? Allora, anzi no, questa la, in realtà ce la siamo già sentita. Fatemi un po' vedere. Eh no, e quindi ce l'ascolteremo la prossima settimana. Andiamo avanti, dicevo, torniamo in Italia con Anticatecon. Abissi Dark Ambient, anche se poi di tanto in tanto vengono accesi da scheggi industriali. Elementi di Sublime Ascension, due lunghe tracce, entrambe di ben 26 minuti. Noi ci ascoltiamo la seconda parte della prima, la stessa proprio Sublime Ascension. notevole la solennità, il pathos emanato da questa traccia di Antitatecon, Sublime Ascension, della quale ci siamo ascoltati oggi la seconda parte, anche oggi 13 minuti dedicati a Davide Del Col, artista proveniente dalle parti di Monza. Non a caso apprezzato da Like Awake, anche perché personalmente mi ricorda proprio certi passaggi di Like Awake, le parti diciamo di synth, di organo, e il puntuale Antonio Zovet, sempre veramente puntuale, attua un parallelismo con il cinema, con Tarkovsky. E quindi la prossima settimana ci sentiremo la prima parte della seconda traccia. Disco che vede anche la partecipazione alla costruzione del suono di Giuseppe Verticchio, che interviene anche a livello di grafica. Ce lo siamo gustati fino in fondo, meritava. Come merita la nostra attenzione ed apprezzamento la prossima traccia che vado a mandare, che riguarda Venusia Zozzetta Stramonio. Andremo a parlare di Cupio Dissolvi, abbiamo molto materiale, molto ne abbiamo mandato e molto ne manderemo. Questa sera è il turno di Centro di Igiene Mentale, da Benomil, e poi un'altra traccia dal nome Enuresi. vostro gioco, signori. Fatelo con colpo ferire. Fate il vostro gioco, signore. Fatelo con colpo ferire.